mille volte ho cercato nel mondo, qualche volta ho indagato in me stesso chi sono io. Oh, chi sono? La sfiducia negli altri mi assale, l'uomo è peggio di ogni altro animale, chi sono io? Oh, chi sono? Ma è così allarmante quanto stupidi siamo noi. Ogni giorno succede qualcosa che dimostra ignoranza, abbandono. Chi siete voi? Chi siete voi? Sono sparite le menti più pure, confinate in una nera palude. Chi siete voi? Ma chi siete? E mi sono rotto anche il cazzo di una vita fatta così. Lottare sai, incassare sai, tradire sai. Cerco il bene più puro dentro al mondo, ma è impossibile trovarlo ogni giorno, sai. Poi mi interrogo sul senso più profondo, per capire se alla fine una luce avrai. Delusione che mi sale su. Guardo la luna piena dal deserto, vedo strani bagliori all'orizzonte che, col cielo basso che finisce in mare aperto, vorrei volare in alto tra le nuvole. Forse è possibile trovare la felicità. Guardo la luna piena dal deserto, vedo strani bagliori all'orizzonte che, col cielo basso che finisce in mare aperto, vorrei volare in alto tra le nuvole. Forse utopia, trovare la felicità. Forse magia, assaporare la felicità. La tua è la mia, questa è strana e ripetibile felicità. Felicità, felicità.